Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone in questo 13 febbraio, cominciamo con questa canzone, vediamo se vi piace. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico, beve come un irlandese. Se incontra un disperato non chiede spiegazioni. Divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Da un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio. Questo è un miserere, senza lacrime. Questo è il miserere di chi non ha più illusioni. Carte in regola per essere un artista. Detesta lavorare intorno a un parassita. Vive male la sua vita, ma lo fa con grande amore. Tanto due donne erano belle, bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. E perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista? La vita è una cosa che prende, porta e spedisce. E vabbè, avete forse riconosciuto questa canzone che io credo sia una delle più belle, ma ce ne sono tante belle, di canzoni di Piero Ciampi, ovviamente in una versione non cantata da Piero Ciampi, una versione più recente, e forse avete anche riconosciuto chi è stato nostro ospite quasi un anno fa, era la primavera dello scorso anno, soprattutto nel parlato finale, parliamo di Johnson Righeira, qui accompagnato in un trio da Carlone e Licalzi, a tutte le carte in regola. Apriamo questa puntata perché con questa canzone, non perché facciamo uno speciale su Ciampi, ma lo faccio dire al nostro ergonomico Banzo, a cui do anche il bentornato, auguro buon pomeriggio. Banzo, questa forse è una canzone, dici, perché domani è San Valentino e a Zibaldone vogliamo festeggiare e celebrare la festa degli innamorati, è così? Cosa hai tu da dire al riguardo? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. No, effettivamente non ci avevo neanche pensato che domani fosse San Valentino, e questo forse dice qualcosa sulla mia vita privata, ma non è il momento di approfondire decisamente. Comunque a me piace molto quando per iniziare le puntate lanciamo queste false piste, diciamo, perché sì, alla fine questa canzone c'entrerà relativamente poco con il tema della puntata e l'ospite della puntata, però perché l'abbiamo messa? Perché è una cover molto particolare, molto originale di Piero Ciampi, che è uno dei numi tutelari di Zibaldone. Johnson Righeira è un grande ed è stato anche nostro ospite, e nel frattempo il San Giloise è diventato campione di Belgio, se ricordate l'intervista. Eh sì. Quindi era un buonissimo brano per iniziare, ma la puntata prenderà subito un'altra piega già dalla prossima canzone, Steven, perché passo ad annunciare il titolo di oggi, che è Canzoni di rabbia e di guerra, che è anche il titolo, non ci siamo sforzati moltissimo, del disco che presenteremo. Come nel caso di Johnson Righeira, si tratta di una vecchia conoscenza di Zibaldone, è Gerardo Balestrieri, ma lascio la parola a te. Eh sì, questo è il titolo del suo nuovo disco, uscito l'anno scorso nel 2025, ne parleremo tra poco con lui, vi proporremo anche qualche brano, prima di lanciare proprio la canzone che apre questo ultimo album di Gerardo Balestrieri, alla voce tra l'altro ci sarà una partecipazione, quella di Pierpaolo Capovilla, 50.000 morti, questo è il titolo del brano. Vorrei anche dire, Banzo, che effettivamente dici Ciampi non c'entra molto con Balestrieri, o forse sì, in realtà insomma Gerardo ci potrebbe dire qualcosa al riguardo nel mondo della canzone d'autore, ma soprattutto io direi che anche la canzone di Piero Ciampi, per quanto non sia una canzone di guerra come alcuni dei brani del nuovo disco di Balestrieri, però insomma è una canzone di rabbia a modo suo, e infatti oltre al disco di Gerardo Balestrieri in questa puntata ci ascolteremo anche alcune altre canzoni, e in genere quasi tutte delle nuove uscite, che possiamo mettere se vogliamo anche sì e no sotto questo titolo. Però insomma, bando alle ciance, Banzo, il tempo vola, noi vogliamo ascoltarci un po' di questi brani e andiamo subito con questa 50.000 morti. Gerardo Balestrieri, dimmi un po'. Effettivamente di rabbia e di guerra, perché un titolo così, insomma, una dichiarazione di intenti fortissima, e ti ho interrotto, di Gerardo Balestrieri featuring Pierpaolo Capovilla, scusa. Bravissimo, hai fatto bene, eccola qui. Morti, morti, 50.000 morti, e non ce ne siamo accorti. Morti, morti, 50.000 morti, e non ce ne siamo accorti, eravamo troppo presi. Morti, morti, 50.000 morti, e non ce ne siamo accorti, ci eravamo un po' distratti nel considerare i fatti. Oh, società dello spettacolo. E intanto quest'uolo procede senza ostacolo e rade tutto al suolo. Morti, morti, 50.000 morti, mentre intorno tutto tace. È un deserto di morti e la chiameranno pace. E l'ospite di quest'oggi a Zibaldone, ve l'abbiamo detto, è Gerardo Balestrieri, che torna a farci visita. Lo seguiamo da un bel po' qui su Radio Contrabanda, la sua veramente intensissima produzione discografica, 15° disco uscito nel 2025, Canzoni di rabbia e di guerra, e anche è tratto proprio da questo disco, è il brano che ci siamo appena sentiti, 50.000 morti, dove insieme a Gerardo Balestrieri c'era anche, lo avete forse riconosciuto la voce, Pierpaolo Capovilla. Gerardo, innanzitutto bentornato a Zibaldone, un piacere averti di nuovo con noi. Ciao Steven, ciao a tutti e grazie dell'invito. Ascolta, parliamo subito di questo disco, Canzoni di rabbia e di guerra, un disco che tu dici nella presentazione, un disco di canzoni che non avrei voluto scrivere, però dici invece non è tempo, ho scritto canzoni di rabbia e di guerra per le macerie di questi anni, cominciamo da qui. Beh sì, come dire, avendo una propensione, ma credo come un po' tutti, verso più la leggerezza, l'allegria, no? Credo che un po' tutti siamo portati ad essere più allegri nella vita, però poi appunto gli accadimenti vari non ci permettono, un po' come le nuvole di De André, di quel disco che descriveva De André. E io sono stato molto combattuto all'inizio, però poi è stato, come dire, un dovere personale. Da una parte un'esigenza anche di liberarsi da continue energie anche negative, solo a guardare e a leggere delle immagini, soprattutto di questi anni. E poi credo appunto anche doveroso pubblicare un disco del genere, anche per dare al pubblico appunto un ascolto intorno a queste tematiche poco allegre. Insomma, 50.000 morti, dove, lo dicevo prima, ti accompagna anche Pierpaolo Capovilla, un brano insomma che parla, è facile capirlo, di quello che è successo in Palestina, Gaza in questi anni, e un numero di morti che purtroppo da quando voi avete inciso il brano non ha smesso di aumentare. Beh no, ma già quando l'ho scritto erano, purtroppo già erano di più, come dire. Questo disco è stato scritto subito dopo il Festival di Sanremo dell'anno scorso, ricordo proprio il periodo, anche abbastanza di getto, pur volendo descrivere poi appunto le nefandezze della guerra in maniera così generale, ma ovviamente poi si concentra su quello che è successo a Gaza e sta succedendo a Gaza negli ultimi anni. 50.000 morti è uno dei brani, poi c'è neanche un altro, neanche una parola in Occidente che, come dire, comunque appunto è focalizzato più sulla questione palestinese. E a proposito di come cantare la guerra, no? Tu dici, quando presenti questo disco, dici che canti e suoni la dinamica del potere e le macerie di questi anni, perché anche appunto neanche una parola in Occidente è una critica dura ma molto realistica di quello che succede in Occidente, sia da parte del potere, dei governi, ma anche dei media. Beh sì, ma soprattutto poi io credo che questo disco, come dire, prenda un po' spunto da quello che Guy Debord diceva qualche anno fa, soprattutto nei commentari riguardo alla società dello spettacolo, no? Dove siamo arrivati in una condizione dello spettacolo cosiddetto integrato, no? Dove tutto vale il contrario di tutto e dove l'informazione non è più informazione alla fine, ma non è una questione di voler fare, come dire, il complottismo o la controinformazione che si faceva magari una volta, è proprio la realtà dei fatti che oggi è molto difficile capire come poi realmente vanno le cose. Ecco, secondo. E tra le canzoni presenti in questo disco ci sono anche una canzone, forse diciamolo così, di speranza, Mare, il brano che chiude questo album, che si è aperto proprio invece con il brano che abbiamo sentito prima, 50.000 morti, e prima di Mare c'è un altro brano invece dove in realtà insomma, rifletti a modo tuo su insomma, canzoni di rabbia, come dal titolo di questo disco, Canzoni di rabbia e di guerra, e il cantar d'amore, no? Che è anche un po', o l'allegria se vogliamo, la festa e l'abbondanza, che è quello che tu dicevi anche prima, insomma, quello che a tutti forse piacerebbe più cantare, più che insomma, le macerie, le guerre, insomma, le tragedie che succedono o che sono successe in passato. Ecco, questa chiusura è una chiusura di speranza, è una chiusura ancora di critica verso forse alcuni tuoi colleghi, no? Musicisti, interpreti, cantautori, ma poi c'è anche la speranza, o invece la lettura che sto facendo io è sbagliata? Dicelo tu, insomma, che hai scritto questo album. Beh, mi viene in mente e partono cantando con la speranza in cuore, anche se poi la speranza, Steven, da sola non basta, ovviamente. Però essendo un disco di per sé devastante, diciamo, ho voluto anche appunto nell'ultimo brano, che poi non a caso è anche l'ultimo, diciamo, nella sequenza, dare questo velo appunto di intravedere la luce in tutte queste macerie. Ma un po' tutto il disco, come dire, nonostante poi abbia appunto questi testi crudi e analizzi in qualche modo, come dire, l'orrore dell'essere umano, no? Come anche in Kurz, dove ho voluto sintetizzare in quel monologo quello che appunto era l'orrore che descriveva Conrad, ripreso poi anche in Apocalypse Now, no? Per cui intorno a tutto questo orrore trovare comunque un bagliore, una luce, ovviamente per un futuro migliore. Perché ci auspichiamo sempre questo sol dell'avvenire. Mi viene in mente anche l'ultimo film di Nanni Moretti, a partire da questo sintagma. Ma sì, hai ragione, perché credo, no, che la difficoltà, anche poi da un punto di vista artistico, è quello di riuscire a razionalizzare e comprendere. E quindi quello è un passaggio che, come esseri umani, è un passaggio per noi fondamentale, che siano cose positive o che appunto siano cose drammatiche, negative, delle tragedie. E spesso è proprio difficile riuscire a capire, comprendere, non solo anche, no, dicevamo prima, perché la disinformazione o le fake news, quello che è, no, l'impatto che hanno le reti sociali e tutto ciò, o le narrative estremiste, ma anche appunto perché proprio riuscire a razionalizzare, no, in un'epoca che pensavamo ci portasse sempre più avanti verso, no, le vette del progresso, di maggiore umanità, e poi ci troviamo sempre a fare i conti con quello che facevano anche i nostri antenati nella preistoria, ossia le guerre, l'ammazzarsi per il potere o per qualunque altra ragione, le religioni, la politica, le ideologie. Beh sì, razionalizzare e comprendere in un'epoca in cui le questioni complesse vengono semplificate e le questioni a volte semplici vengono rese complicate, quello è anche un po' il paradosso. Ma anche intorno, voglio dire, alla scrittura di questo album, per me è stato importante razionalizzare e comprendere anche cosa andavo a scrivere, con chi avevo a che fare. Infatti, come dire, è stato molto sottile la scrittura intorno poi a una questione dove non puoi andare a puntare il dito poi contro. Io nel disco, ad esempio, ho scritto che questo disco, questo album poi non va a sventolare bandiere, in realtà, no? Piuttosto le ammaina, piuttosto che sventolarle, proprio perché è talmente complicata ed è talmente un concatenarsi di situazioni che vuol dire che dare solo la responsabilità a una persona, ad un singolo, non ne vieni fuori, perché appunto è molto più complessa la questione. Per cui anche la scrittura, non so se ci sono riuscito, però ho cercato di stare attento riguardo anche a questo aspetto. Ma i nostri ascoltatori adesso se ne faranno anche un'idea, perché prima parlavamo di Kurz, andiamo a ascoltarci questa canzone contenuta nel tuo ultimo disco, ricordo il 15° uscito nel 2025, Canzoni di rabbia e di guerra, poi rientriamo qui insieme a te. Thank you. ascolti Will, io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto. Che non sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico. Ricordo quella volta vaccinammo dei bambini malandati. Poi tornammo che qualcuno delle braccia li aveva mutilati. Erano là in un mucchio di piccoli membri. Ed io pianto pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una pallottola diamante. Non erano mostri, erano uomini svegli, uomini addestrati che hanno madri, mogli e figli, con un senso ancestrale comune nella lotta, con un istinto primordiale comune della grotta, comune della grotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale, che sappiano usar bene l'istinto animale. L'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione. Che ci sconfigge Willer è il giudicar di piglio. Se dovesse essere ucciso di caduto tuo a mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto è il fetor delle menzogne. Kurz, Tours, il secondo brano che vi proponiamo dal nuovo disco di Gerardo Balestrieri, che quest'oggi è ospite a Zibaldone. Gerardo, parliamo anche un po' dei musicisti, perché ti accompagnano moltissimi musicisti, moltissimi amici, non solo Pierpaolo Capovilla. Sì, sì, sì, è una bella ciurma di 15 musicisti, sì. Pierpaolo Capovilla, questo disco è stato registrato prettamente tra Venezia e Napoli. C'è Carlo Di Gennaro che a Napoli ha curato la produzione artistica con me e ha mixato l'album ed è il batterista del disco. Daniele Vianello al contrabbasso, c'è Stefano Ottogalli alle chitarre, Massimo D'Avanzo ha suonato la zurna, c'è Michele Signore della nuova compagnia che ha suonato mandoloncello, c'è l'ud, il tombak, c'è qualche strumento medio orientale. Io mi sono divertito e faticato un po' intorno alle tastiere, qualche chitarra, insomma sì, lavorando un po' a distanza. È stata un'autoproduzione, Steven. Infatti il disco poi è autoprodotto, distribuito da IRD, ma insomma l'ho fatto io grazie al tempo libero degli amici musicisti che hanno inciso. A questo proposito, infatti, no, tu dici anche una cosa, che questo disco non esce in digitale, ma solo in CD fisico, e questa anche mi sembra una scelta importante, visti i tempi che corrono, e che io approvo, voglio dire che ci sia ancora un oggetto fisico che appunto in questo caso racchiude, no, il tuo lavoro come cantautore e musicista durante l'ultimo anno. Beh sì, ma ci sono poi tantissime ragioni intorno a questa scelta. La più semplice è che io poi, col senno di poi, mi chiedo sempre, ma come abbiamo fatto noi a dare tutto? Insomma, sono un cantautore semi sconosciuto, però che la musica sia finita in mano al digitale, che non paga poi veramente nulla, è una roba che senza senso. Come dire, egoisticamente questa è la prima ragione, considerato il fatto che poi dare dei lavori appunto a Spotify, che ti paga una miseria, quando poi arrivano, se arrivano. Poi era estremamente contraddittoria la questione, perché considerando anche le scelte di questa piattaforma che ha deciso di investire nel bellico, insomma, era molto contraddittorio dare un disco contro la guerra a chi invece investe denaro per perpetuarlo, assolutamente. E poi sì, e poi anche la questione di voler, come dire, dare, di avere una fisicità intorno alla questione, per una questione sia di memoria che proprio appunto un oggetto, qualcosa di tangibile, di avere. Poi la questione, Steven, è che ormai pochissimi hanno più il lettore. Questo sì, questa è una questione di cui tenere conto. Insomma, io poi a chi vuole acquistare il CD, che si trova appunto, comunque si trova online, e anche ancora sulla mia pagina del crowdfunding, che poi mi ha permesso in parte di realizzarlo, oltre al CD fisico comunque posso inviare poi i file HD, ovviamente personali, però appunto su YouTube ci sono dei frammenti, ma questo disco appunto non si ascolta per intero digitale. No, è un'ottima scelta. Ascolta, riguardo i musicisti, prima parlavamo, no, ti accompagnano molti amici, strumenti di diverso genere, che hanno a che fare anche con i tuoi studi, i tuoi interessi, le tue ricerche musicali, anche i tuoi precedenti dischi. E questo si collega anche con i generi musicali, per così dire, delle canzoni, no? Andiamo dal rock a ritmi più cantautorali, a altri tipi di sonorità. Ricordo, insomma, album di cui abbiamo parlato anche insieme a te in passato qui a Zibaldone. Nel 2021 era uscito il tuo Elettro Gypsy Pandemica, nel 2024 Cumbia 8 pezzi facili, nello stesso anno Elettro Liscio, andiamo indietro nel tempo e troviamo Sincretica, era il 2018, insomma tu spazi, no, come generi moltissimo, hai spaziato in questi ultimi ormai 20 anni buoni di carriera artistica, anche di più. Ecco, anche in questo disco, insomma, ne dai prova. Sì, sì, non ho mai timbrato il cartellino, come dire, riguardo uno stile. In questo caso, pur non essendo appunto un cantante, interprete rock, diciamo, ho pensato comunque di vestire i testi con delle sonorità abbastanza aggressive, mi sembravano giuste, insomma, considerando la tematica creare questo tipo di immaginario sonoro. Però intorno al rock poi c'è tanto altro, appunto c'è un po' di canzone di musica d'autore con le chitarre, c'è la parte più che arriva anche alla jungle, insomma si cerca poi di affrontare sempre diversi stili musicali. Però questo è un po' più rockettaro rispetto a un po' più rocchettaro, c'è più la rabbia, no? La rabbia del rock alla fine, insomma, è uno stile, è un genere musicale che forse anche dà più voce a un tipo di disco, di testi, di messaggi come quelli che tu hai voluto dare in questo album. E, c'è un brano però che, diciamo, è un brano più ironico, no? Forse l'unica nota in questo senso leggera del tuo disco, che è un brano che si titola Festival. Prima parlavi appunto che il brano 50.000 morti l'hai scritto insomma nei giorni o subito dopo, dicevi prima, del Festival di Sanremo dell'anno scorso, insomma è passato un anno, ecco, in quel brano Festival immagino che anche lì ci siano, insomma eri in quel periodo, in quelle stesse settimane, perché fai una critica spietata, ironica, mettendoti anche tu come protagonista in gioco al Festival di Sanremo e a quello che significa per molti appunto cantautori o musicisti. Il disco lo ricordo di averlo scritto appunto subito dopo il festival, perché appunto c'è questo brano. Ero partito con 50.000 morti e poi il resto l'ho scritto in 3 notti, è stata veramente veloce la scrittura, proprio subito dopo questo, la scorsa edizione del festival. E questa canzone, forse più che ironica, c'è un po' di sarcasmo, sì, intorno. Sì. Perché, guarda, l'anno scorso a me mi ha, devo dire, un po' colpito, guardando anche un po' la kermesse, che era un po' quella dedicata ai cantautori, no? Per cui c'erano diversi nomi di cantautori bravi. Colpito l'esposizione mediatica a cui anche questi cantautori sono sottoposti prima, durante e dopo questo festival. Cioè è un anno di paillette, di reels su TikTok, di dover, come dire, sempre stare sul pezzo, le prove, lo stilista, cioè tutte questioni che poi con la canzone in sé veramente non c'entrano nulla. Sì. E poi non era che, come dire, non è vorrei essere snob, come dire, anzi a me piacerebbe anche andare al festival. Per cantare questa canzone magari. magari sì, però immaginavo proprio il contesto, cioè non credo però reggerei poi a tutta la macchina infernale. Ascolta, ma a questo proposito, no dimmi che ti ho interrotto. No, e come dire, e poi siccome poi qualcuno l'ha visto proprio come un brano un po' scollegato, diciamo, dal resto, in realtà è quello proprio che c'entra la questione proprio della società dello spettacolo, poi applicata a tutti i contesti, no? Io credo che poi il festival in sé sia anche il momento in cui, come dire, noi comunque tra un attentato, una guerra e l'altra, comunque ogni anno poi abbiamo quella settimana di distrazione che, Che al festival. È come se facesse parte del... Ma guarda, a questo punto, visto che poi adesso ci salutiamo, io pensavo di mandare in onda Chissà, che è un'altra canzone bellissima, con un testo molto profondo su quello che sta succedendo nel mondo. Però a questo punto, visto che abbiamo parlato di festival e che tu ci hai anche spiegato appunto che non è una canzone un po' messa lì a caso, al contrario, ma si collega, e visto che insomma tra qualche giorno c'è il festival di questo 2026, se a te sembra bene, chiuderei la nostra chiacchierata con Festival, che ne dici? Ma certo, tra l'altro la settimana scorsa ho suonato a Sanremo e l'ho fatta anche lì, non era male, diciamo. E poi questa canzone ha un finale che omaggia un po', devo dire, proprio sinceramente, insomma, io sono arrivato poi, dovevo concludere questo testo, per cui per questioni metriche, per questioni di pensiero, a un certo punto sono arrivato alla questione che poi io, in realtà, ho avuto la fortuna di salire su quel palco in occasione appunto di qualche rassegna del Tenco che mi hanno invitato, per cui a un certo punto ho virato la questione e ho voluto omaggiare un po', insomma, l'altra kermesse, il premio Tenco, il Club Tenco, che comunque è sempre lì. Fantastico, allora ce l'andiamo a ascoltare. Gerardo, grazie mille di essere stato con noi, complimenti per questo album e ti aspettiamo probabilmente l'anno prossimo, perché insomma ogni anno sforni un disco nuovo. Un grande abbraccio. Un abbraccio Steven, grazie a tutti, grazie, buon ascolto. Se un giorno dovessi andare a Sanremo, dovrei vivere almeno un'annata da scemo. tra i violini le prove, promozioni e TikTok, conduttori stilisti, ma tu pensa che shock, le prove degli abiti, le luci, la scala. Il dopo festival avvilito a dormire in poltrona, le interviste ai giornali, le bevute di gin, vomitare in diretta a domenica in. Se un giorno dovessi andare a Sanremo, dovrei vivere almeno un'annata da scemo. Su e giù con il tour, riservando gli accrediti, finché la mia measure non ripaga i suoi debiti. Certo avrei in banca qualche numero in più, ma fai tu le storie reels ogni ora su e giù. Tritato per bene tra pestello e mortaio, se si sale o si scende lo decide il giostraio. Se un giorno dovessi andare a Sanremo, dovrei avere in tasca un ritornello un po' scemo, due strofe pacate con la rima baciata, poi una voce che urla con l'orchestra basita. Dovrei pensare ad una cover, ad un tango, e invitare un artista, un poeta di rango, vestiti da struzzi scendendo la rampa, in attesa di un bacio dalla sala stampa. Se un giorno dovessi andare a Sanremo, direi che su quel palco ci sono già stato, ma era un'altra rassegna, era un altro spessore, era un'altra storia, era la mia, era un'alta stagione. Inizio in grande stile per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, con la staffetta mista dei milanesi nel traffico impazzito. E la passione per i giochi e videogiochi vintage che piacciono sempre di più, come il Tamagotchi dell'Ice, che alla fine si è danneggiato durante il trasporto perché conservato per errore con ghiaccio secco. Dopo una giornata emotivamente difficile. Nuovo attacco di Trump a Barack Obama e Michelle. Sul suo social pubblica un video creato con l'intelligenza artificiale che li ritrae come due musumeci. Sono stato distratto dal mio angelo custode. Non avevo visto quella parte, dice, e scarica un collaboratore in un canale in Texas, poi incolpa un trentenne nordafricano. Piantedosi alla Camera dopo i fatti di Torino, cede all'acquisto compulsivo e spende più di 36.000 euro su Amazon per una strategia eversiva del 74. Alto livello di attenzione per possibili attacchi cyber, la scoperta di un team di ricercatori di Genova. In 10 casi gli hacker sarebbero stati in grado di simulare la presenza di Salvini al Ministero dei Trasporti. Nuovo attacco di Vannacci che ufficializza l'addio alla Lega e sui social lancia un nuovo partito chiamato Futuro Stratosferico Improvviso. Vabbè, avete sentito che sono tornate anche le ultimissime di Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, non so se vuoi commentare sul nome del partito di Vannacci o su altre cose, lascio a te l'onere e l'onore della scelta. Volevo proprio parlare del nome del partito di Vannacci, che è forse la prima e unica cosa fin qui di Vannacci che mi ha entusiasmato, perché rivela delle ascendenze, se vogliamo, raccolte, perché a me sembra un nome chiaramente di ispirazione futurista. È curioso andare a ripescare i futuristi a circa un secolo di distanza, ma Vannacci forse è più avanti o più indietro di quello che pensavamo. Forse però il partito non si chiama così, e da questa dimensione parallela delle ultimissime, in questa dimensione parallela delle ultimissime invece sì, non lo so. Però ti devo dire anche un'altra cosa che unisce in modo strano presente e passato è il Tamagotchi dell'AIS, che era conservato con il ghiaccio secco. Il Tamagotchi è una cosa che, benché ovviamente non sia remota quanto l'arrivo della patata in Europa, sembra ormai paleolitica, ed è incredibile collegarla all'AIS, che invece è, diciamo, l'attualità più pura. Non so se avrei voglia di giocarci, potrebbe essere un animaletto piuttosto aggressivo, ecco. Eh sì, comunque avete sentito anche il terzo brano che abbiamo proposto di Balestrieri, che tra l'altro parla del Festival di Sanremo, no? Ne abbiamo parlato con lui, e a questo proposito già vi annunciamo che la prossima settimana torna il nostro speciale Respinti all'Ariston, che ogni anno, no, insomma, offre uno sguardo un po' diverso di quello che è il Festival di Sanremo. Detto ciò, Banzo, io andrei avanti perché abbiamo ancora qualche minuto e vorremmo proporre ai nostri ascoltatori alcune canzoni come questa, che secondo me è fantastica, di Flavio Giurato. Il titolo è Atene 4, è uscita da pochissimo nel suo nuovo album Il Console Generale. Insomma, Giurato, Banzo, è in giro da tanti anni, no? La sua carriera artistica era cominciata a fine anni 70, nel 78, però si mette sempre in discussione e questo progetto e questa canzone secondo me sono molto potenti. Beh, innanzitutto un ritorno dopo un po' di tempo, perché dall'ultimo mini nuovo Marco Polo erano passati circa 6 anni, sì. L'album si è uscito a meno di un mese, il 16 gennaio, e beh sì, Giurato è sempre stato così, sempre stato oltre, a volte spariva per anni perché ha avuto sempre un percorso artistico talmente sui generis, talmente fuori dai canoni, diciamo sì, è un cantautore, si può inquadrare nella canzone d'autore, però è sempre stata una figura più unica che rara, e diciamo che anche il prosieguo della sua carriera discografica in età ormai avanzata lo conferma. E però una piccola curiosità, hai menzionato il titolo del brano, Atene 4 sembra che sia il nome di un taxi, sia stato ispirato il titolo della canzone al nome di un taxi che deve aver visto presumibilmente ad Atene, ecco, sì. Più facile che a Vilnius decisamente, perché Atene comunque è la città simbolo della civiltà occidentale, quindi anche da un taxi possono partire delle riflessioni metaforiche interessanti. Andiamoci ad ascoltare Flavio Giurato, Atene 4. Piazza Verbano nel più focale della futura azione. Giancarlo delle Piane richiesto in posizione, pronti a girare. Silence pour tous, s'il vous plaît, ça tourne. Tutta la situazione è molto importante. C'è la scena con Vittorio che ha perso il diamante. Piazza Verbano è a pianta circolare, il diamante sicuramente proverà a tornare. Jack motore. Piazza Verbano è a pianta circolare, nel raggio più letale dell'intero. Intonazione e dal più intimo spartito. Il taxi non è ancora arrivato, il pranzo è servito. Atene 4 massa giuccoli in 3 minuti. Atene 4 massa giuccoli 3 minuti. Think once, think twice, think back. Think once, think twice, think back. 4 massa circa i 3 minuti. Allene 4 massa circa i 3 minuti. Allene 4 massa circa i 3 minuti. Think twice. Think bike. Molto bello, è molto potente, è difficile trovare un aggettivo per questo brano, perché direi che è anche unico in tutti i sensi, sia nella forma di cantare che nella composizione, vero Banzo? Guarda, sulla maniera di cantare ci pensavo durante l'ascolto, l'unico in Italia che canta in un modo simile è Giambeppe Succi dei Bachi da Pietra ed Exma dei Galli Magri, non credo sia voluto, però effettivamente convergono in quella direzione, ma passiamo al penultimo brano, Steven, perché insomma siamo partiti con Ciampi e chiudiamo quasi con Ciampi, però anche questa è una cover. Sì, è una cover recentissima di Alessia Arena e Chiara Riondino. In realtà cover ce ne sono due, perché Alessia Arena e Chiara Riondino, che collaborano da tempo, sono state anche nostre ospiti qui a Zibaldone tempo fa. A Ciampi avevano già dedicato un intero progetto e un disco. Bene, hanno inciso questa canzone in due versioni, una con la voce di Alessia Arena, una con quella di Chiara Riondino, e con anche, diciamo, linee melodiche diverse. Noi vi proponiamo quella di Alessia Arena, e si tratta di una canzone alla mia principessa, cioè, ossia, meglio dire, una poesia inedita di Piero Ciampi, che Ciampi scrisse nell'ottobre del 79, fu raccolta nel libro Piero Ciampi Canzoni e Poesie, pubblicate l'anno successivo, nell'80, che poi insomma è anche l'anno della scomparsa di Piero Ciampi, libro scritto e curato da Enrico De Angelis, e Alessia Arena e Chiara Riondino l'hanno quindi messo in musica, l'hanno interpretato ed è stato apprezzatissimo al premio Piero Ciampi, e poi anche presentato insieme al loro progetto e al Teatro Goldoni di Livorno, ovviamente, la città di Piero Ciampi. Insomma, adesso mi zittisco e ci andiamo a sentire questa versione, no? Alessia Arena e Chiara Riondino, Alla mia principessa, un inedito di Piero Ciampi. Altezza, principessa, mia regina, volevo vederti, rivederti, salutarti. Tu capisci, ma ti stupisci. E così è il solito. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Sempre dividiamo due pensieri che vanno in direzione opposta. Tu ti sazi del tuo corpo ed io che cerco un Cristo tra la folla. Ci amavamo troppo e l'ultima volta abbiamo deciso di dirci addio. Fantasma qualsiasi ora, tu torni nella notte, aggredisci i miei sogni, sovente puntuale, risvegli i miei sogni. Arrivederci. Thank you. batte il giorno nel cerchio quadrato della mia vita. Tu cerchi spazio, giudice spietato della mia coscienza e delle mie scelte. Ti amo, ma solo perché anche tu mi hai amato. Che ti perdono. Arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci, arrivederci. Altezza, principessa, mia regina, non mi odiare se non dormo più con te. E così si conclude questo brano. C'è anche l'altra versione, quella di Chiara Iordino, ma ovviamente non abbiamo la possibilità di mandarla in onda, magari chissà in futuro. Banzo, noi siamo arrivati alla fine di Zibaldone, c'è il tempo però per l'ultimo trago. E quest'oggi andiamo, insomma, sempre un po' all'estero, a partire da canzoni italiane interpretate in altre lingue. E che cosa proponiamo? Credo che non siamo mai andati così lontano come oggi, Steven, perché addirittura con una canzone italiana arriviamo agli antipodi dell'Italia, cioè Nuova Zelanda. Diamo molta preponderanza ovviamente alle versioni in spagnolo, ma quella di oggi sarà in inglese. E è un brano che credo non abbia bisogno di presentazioni, come si dice quando una cosa la conoscono anche i sassi, perché è Il ragazzo della via Gluck di Celentano. Brano del 66 che viene riproposto praticamente in contemporanea da questo gruppo neozelandese, i Sounds Unlimited, gruppo dalla brevissima carriera. Non ci arriva direttamente perché una traduzione in inglese era già stata incisa dalla statunitense Verdell Smith con la traduzione di Paul Vance, tutto sommato rispettosa dell'originale. Beh, comunque nel mondo di 60 anni fa diciamo che le canzoni circolavano con una velocità inattesa se in pochi mesi Celentano arriva in Nuova Zelanda. Diciamo che una differenza rilevante rispetto all'originale, che tutti gli italiani conoscono a memoria anche senza volere, è sicuramente l'arrangiamento. Adesso non vi anticipo molto, ascoltatevelo, però possiamo dire sicuramente più vario e più ritmico, più ritmato. E per quanto riguarda il testo, il titolo insomma ovviamente non è The Boy of the Gluck Street, ma è... Sarebbe bellissimo, ma no. Ma è Tar and Cement, no? Cioè catrame e cemento, sì. Beh, comunque è un titolo molto coerente, sì, col tema, che è il primo tassello della fissazione ecologica di Celentano, anche questo va ricordato. E beh, allora ci andiamo... della poetica sì, ecologista. Sì, sì, che poi tornerà. Comunque, insomma, ci andiamo ad ascoltare questo brano. Noi vi invitiamo a risintonizzarvi la prossima settimana, come tutti i venerdì, dalle 17 alle 18, per una nuova puntata di Zibaldone, dove ci sarà appunto, ve l'abbiamo già detto, i respinti all'Ariston del 2026, quindi insomma torneremo a parlare anche di grandi artisti che sono stati esclusi e perché e così via, insomma tanti aneddoti e anche canzoni particolari, alcune più belle per noi, magari altre non tanto, però insomma buon venerdì sera. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alla fine del franchismo tutti i venerdì sera alle 17:56 diceva: comunque non era l'intenzione di Celentano, ma la frase "e non lasciano l'erba" a me ha sempre fatto pensare a sequestri di marijuana da parte del forze dell'ordine. Ciao Banzo, stammi bene. The town I came from was quiet and small. We played in the meadows where the grass grew so tall. And some of them lilacs would grow everywhere. The laughter of children will float in the air. And I can see it all so clearly now. still going on. Yes, I can see it all so clearly now. Oh, all of it's gone. As I grew older, I had to roam far from my family, far from my home, into the city where lives can be spent, lost in the shadows of tyrant cement. Into the city where I'd have my eye on all of the pleasures that money can buy. And every night I'd sit alone and learn what loneliness meant. Up in my rented room above the world, all tar and cement. Each day I'd wake up, look at the sky, think of the meadows where I used to lie. Then I'd remember all of that's gone. You're in the city, better move on. Get what you came for before it's too late. Get what you came for, the meadows can wait. So every night I sit alone and learn what loneliness meant. Up in my rented room above the world, all tar and cement. Many years later, tired at last, headed for home to look for my past. I looked for meadows, wasn't a trace. Since then a highway had taken their place. Where were the lilacs and all that they meant? Nothing but acres of currents and men. Yet I can see it all so clearly now. Where has it gone? Yes, I can see it all so clearly now. Where has it gone? Where are the meadows? Orange and red. Where are the lilacs? Orange and red. And where is the tall grass? Orange and red. And the laughter of children? Orange.